un'altra volta, un anno in più. Ma per fortuna ci sei tu, che mi racconti la tua estate, piena di cieli azzurri e fate. Un'altra volta, un anno in più, quella mattina c'eri tu, che disegnavi la mia vita, sì, sopra ad un foglio a matita. E capire se è normale inventare un'astronave per volare via da qui, oltre cieli limpidi. I wanna be with you per sempre, sempre tu, una stella impazzita nei tuoi occhi. Se mi tocchi, I wanna be with you per sempre, sempre tu. Per giocare, farti amare e passare tutto il tempo insieme. Un'altra volta, un anno in più. Per fortuna ci sei tu, con la tua storia fra le dita, c'è tutto pronto, è la tua vita. Un'altra volta, un anno in più, ti sento forte anche di più. Resta qui stretta in questa gita, non lasciarmi o scolorirà. Per capire se è normale non forzare mai la mano, ma volare stando qui senza cieli limpidi. I wanna be with you per sempre, sempre tu, una stella impazzita nei tuoi occhi. Mi sento più vero se mi tocchi. I wanna be with you per sempre, sempre tu. Per giocare, farti amare e passare tutto il tempo insieme.